il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E a proposito di stagioni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, direi che il periodo è piuttosto caldo, anzi potremmo dire rovente. Del resto i meteorologi hanno già detto che questa è stata l'estate più calda degli ultimi 50 anni e vediamo se con questa puntata specialissima di Non ci sono più le mezze stagioni, una puntata monografica, riusciamo a rendere l'atmosfera ancora più calda. Tu, a far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. Comincia tu, comincia lei, comincia lui, insomma vedremo chi comincerà. Noi intanto cominciamo questa puntata, insomma, l'argomento l'avete intuito da questa canzone di fortissima, incontenibile, insostenibile tensione erotica. Naturalmente di questo vorrei parlare a voi, diciamo, in un momento in cui il calore si fa forte e anche in cui si può essere più leggeri, anche con un argomento effettivamente impegnativo, quindi di sesso parleremo e di sessualità, soprattutto con riferimento a un caso letterario di questo periodo, degli ultimi mesi, che è esploso a proposito di è scoppiato, diciamo, un po' in tutto il mondo, ha venduto decine di milioni di copie. Qualcuno si chiede come mai, perché, per quale motivo, come sarà mai, ci sono state molte stroncature. Questa è la trilogia erotica della scrittrice britannica e il James, pseudonimo di Erika Leonard, che è una trilogia appunto erotica che l'ha resa molto, ma molto, ma molto ricca. Pensate, soltanto per avere la misura del successo che ha avuto, che ha superato in uscita il record del Codice da Vinci e anche la saga del maghetto Harry Potter. Molti, dicevo, l'hanno stroncato questo... questo romanzo appunto ha tre puntate, che si intitola la prima 50 sfumature di grigio, poi l'altra 50 sfumature di nero, 50 sfumature di rosso, la terza con tutti i colori che ci sono, possiamo andare avanti probabilmente per anni, ma intanto concentriamoci su questo che è già il prodotto, insomma, di questa scrittrice. Tra poco diremo anche brevemente qual è la trama, ma intanto, signore e signori, vi presento gli ospiti di oggi. Beppe Tosco, benvenuto Beppe. Buongiorno a tutti. Attore di teatro e radio, autore TV, collaboratore di Luciana Littizzetto per i testi, che ha scritto di recente Perché le donne credono nel colpo di fulmine e gli uomini nel colpo di culo, detto proprio così, fuori dai denti. E poi c'è Gianna Schelotto, notissima psicoterapeuta. Gianna? Ciao, buonasera a tutti. Benvenuta a te, Gianna. Giorgio Mulet, caro Giorgio, direttore del settimanale Panorama. Eccoci, grazie. Grazie a te, Giorgio. C'è Roberta Giommi, sessuologa e psicoterapeuta dell'Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze. Cara Roberta. Salve a tutti. Benvenuta. E ci dovrebbe essere, ecco, se non ci sono problemi telefonici, Elisabetta Fernandez, sociologa, presidente dell'Istituto di Studi sulle Relazioni Sociali di Roma e sessuologa. Elisabetta, ci siamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Elisabetta. Quindi, vi dicevo, questa è la premessa di questa trilogia che appunto ha scombussolato, diciamo, il globo terracqueo, un successo planetario. È la storia di una ventenne, questa Anastasia Steele, che incontra un ricchissimo, giovanissimo e bellissimo imprenditore, milionario, Christian Grey, che insomma in questo libro si ripete continuamente che è bello da mozzare il fiato, che è di una bellezza sconvolgente, che è di una bellezza svenevole, insomma mai visti tanti complimenti neanche per una rockstar da parte della ragazzina che strappa i capelli. Comunque c'è questo incontro tra questi due, lei è vergine, tanto per rendere tutto un po' più piccante, lui la inizia alla sessualità ed è poi una sessualità sadomaso, molto spinta al sesso estremo, anche se devo dire che ci sono state appunto tante persone, tanti intellettuali che l'hanno giudicato malissimo questo libro, questa trilogia. Io a mia volta devo dire, non per questioni moralistiche o femministe, lo sono femminista, ma non ritengo che sia offensivo per questo, ma piuttosto di uno stile letterario molto molto molto basso. su un piuttosto banale, e questa scrittrice è una casalinga, nulla di male naturalmente da quel punto di vista, però un po' si risente, ne risente lo stile, senza che se la prenda male Giorgio Mulè, che ha dedicato varie copertine all'argomento, tra cui quella copertina che mi fece arrabbiare molto, Libere, sottomesse e felici, con questa ragazza molto bella vista di dietro con un po' il culetto che si intravede e questo corpetto con le stringhe, i polsi incrociati in alto come fossero legati, non lo so, ecco, non mi ha fatto arrabbiare il libro, ma la copertina, la prima copertina che fece su questa trilogia Giorgio Mulè, perché un conto, dico io, è leggersi il libro al di là che sia per bocche buone o cose eccetera, e così nel proprio intimo, giocando poi tra le lenzuola come uno crede, un conto è lanciare un messaggio da un giornale così autorevole come Panorama. Ma come ti puoi discolpare, Giorgio Mulè? Ma scusa Roberto, io in realtà non penso di dovermi discolpare di nulla, anzi, come dire, rivendico totalmente quella scelta, che era una scelta per illustrare un argomento che, come dire, non deturpava e non vuole in alcun modo offendere la donna, né dare una visione di una donna alterata o diversa da quello che deve essere, quindi, come dire, il faro del rispetto da parte di qualunque essere umano. Quella copertina nasceva da un fenomeno editoriale che già all'epoca viaggiava intorno ai 10-20 milioni di copie intorno al mondo, oggi oramai è quasi su 40 milioni di copie. Voleva entrare su questo fenomeno, ma partiva da un assunto, cioè che le donne, scusami, per essere sottomesse c'è una precondizione, la precondizione è quella di essere libere. Se una donna è libera vuol dire che autodetermina quello che vuole fare e aderisce perché lei, perché la donna vuole aderire a un gioco erotico, a qualsiasi avventura che la coinvolge, la quale lei spontaneamente, liberamente, e questo è il punto che non riesco a far passare anche ad alcune amiche della Mondadori, importanti direttrici di giornali, che è una precondizione, nulla a che vedere con deviazioni o comportamenti, quello della violenza, perché si è detto anche che quella copertina incitava comunque in qualche modo, giustificava la violenza. È una castroneria che non solo rifiuto, ma è proprio contrario alla storia di Panorama, alla mia storia personale, di chiunque abbia voluto guardare la verità, quella che secondo me è la verità di quella copertina. Peraltro in un numero di qualche settimana fa Valeria Ottinelli, che è una filosofa insomma quotata, che di donne ne sa abbastanza, ha parlato non a caso secondo me di filosofia, di femminismo moralista. Sì, anche se lei si riferiva più al libro che non alla copertina, se non sbaglio. Lei, Giorgio, si riferiva in parte al libro, ma soprattutto in parte si riferiva a chi vedeva un nesso tra la sottomissione della donna e la felicità nell'essere sottomesse, e quindi un po' entrava nella polemica. Roberta Giommi, da sessuologa, no? Che cosa effettivamente desiderano le donne? Può essere nella fantasia poi di ognuna, si sa, no? Le donne, come anche gli uomini, hanno tante fantasie, anche vero, di sottomissione, molte probabilmente, e lo dico insomma tra virgolette, immaginano a volte di essere prese con la violenza, ma è chiaro che questa è la fantasia e che la si gioca poi con un compagno rispettoso tra le proprie lenzuola, non certo mentre una esce fuori di casa e rischia di essere aggredita. Questo dovrebbe essere chiaro, no Roberta? Sì, allora dunque nel libro ci sono, appunto, dovrebbe essere letto a voce alta secondo me, perché in realtà un po' come tutta la pornografia può far ridere in senso buono. Cioè, letto a voce alta fa un effetto diverso che letto tutto di fila, e il discorso è che è evidente che la libertà viene indicata anche nelle perversioni varie, cioè se in realtà una persona sta, e qui c'è tutto un tema sul contratto e tutto il resto, il contratto sottoscritto. Sì, cioè, le fa firmare questo contratto di sottomissione, un po' buffo io lo trovo. Una specie di depliante sulle possibilità e divieti. Però dicevo, il discorso della sottomissione l'ha introdotta per primo Freud e portava anche l'invidia del pene, cioè quindi la donna l'invidia del pene, la sottomissione poteva essere vista anche da autori più recenti, su, appunto, legati a Freud, sul discorso della sottomissione come modo più chiaro per avere l'orgasmo. Io non credo, e tutto il lavoro dell'educazione sessuale ci porta a dire altre cose, cioè che in realtà bisogna essere o scoppiate o sottomesse, cioè quindi o con l'alcol o sottomesse. Credo che la sessualità sia anche un'arte, cioè un'arte della relazione, dell'ascolto dei propri gusti e desideri. Mi sembra un po' che la sessualità resti un po' nei vecchi registri, anche in Stuart Do è così. che in realtà il sesso deve essere per forza in qualche modo disordinato, passionale, confusivo. Cioè, ecco, su questo io ho una mia obiezione, proprio perché lavoro molto sull'educazione sessuale. Cioè, quindi è anche la creazione di un'amicizia tra gli uomini e le donne, tra i ragazzi e le ragazze, la capacità di viverlo come sensazioni belle che sappiamo gustare, assaporare. No, altrimenti il sesso resta sempre lì. E poi su questo, Roberta Giomi, poi sull'educazione sessuale ci torniamo, ma volevo chiedere a Beppe Tosco, che dicevamo ha scritto questo libro, che è un pamphlet umoristico, insomma, dei rapporti tra donne e uomini, stereotipi, eccetera, eccetera. Per esempio, nel capitolo Gemiti d'amore, tu ti chiedi perché, se è un piacere fare sesso, ci si lamenta continuamente quando è una questione anche lì sadomaso, oppure... Sì, diciamo che quel capitolo fa parte di quei pochi capitoli del libro che trattano di argomenti, diciamo, più strettamente legati al sesso. Esatto, ma il gioco era, e poi nel capitolo più o meno lo sviluppo, era analizzare tutti i tipi di suoni che emettiamo durante il rapporto sessuale e dare una spiegazione, una motivazione ad ognuno, il che è già di per sé una sciocchezza, ma è un libro di sciocchezze che cercano di essere divertenti. Beh, insomma, perché tu dici l'amore dovrebbe essere meno psicologia e più allegria. Sì. Anche se ogni tanto, insomma, giustamente riflettere, Gianna Schelotto, no, su cosa vogliamo, chi siamo, perché si arriva a certe situazioni. E poi, diciamo, la domanda centrale vorrebbe essere di questa puntata, a parte parlare di sessualità in genere, del sesso al tempo della crisi, perché naturalmente si caratterizzerà anche legato a un periodo particolare, no, Gianna? Ma volevo chiederti... La domanda è perché ha fatto e continua a fare tanto successo questo libro, secondo te, da psicoterapeuta? Te lo sei chiesto? Io un'opinione me la sono fatta. Intanto perché da una parte c'è la fanciulla virginale, non si sa se è proprio vergine, ma certo è virginale. Sì, proprio e dall'altro vergine. Il super bello, il super ecco. E che sono due immagini veramente molto antiquate, ma che in qualche modo fanno scattare il meccanismo della fantasia, perché io credo che a rendere così forte il successo di questo libro c'è la terribile monotonia nella quale si vive oggi. Cioè, non ci sono più le grandi passioni, non solo le mezze stagioni, ma nemmeno le grandi stagioni, cioè questi travolgimenti. È chiaro che io dal mio osservatorio vedo solo persone scontente, forse quelle contente del sesso non ci consultano, però sta di fatto che c'è un quadro di una tale monotonia, il sesso è diventato, non c'è più nessun divieto nel sesso, è tutto permesso, e questo ha reso tutto estremamente monotono, estremamente prevedibile. Allora, un libro che ti faccia fantasticare su legacci, su corde, su cose, fruste, su soffocamenti, fruste, sculacciate, in qualche modo, in maniera anche divertente, ti fa venire voglia di leggerlo. Dubito che faccia venire voglia di farle quelle cose, ma certamente di leggerlo e di abbandonarsi un attimo alle fantasie, come si faceva da adolescenti. Io direi, Elisabetta Fernandez, prima, adesso abbiamo ancora un minuto prima di questo di salutarci per la prossima pausa. Elisabetta, tu invece che idea ti sei fatta? Sei d'accordo con Gianna Schelotto del successo di un libro come questo, la noia, il fatto che tutto sia lecito? Sì, sono d'accordo, e questa voglia di spingersi un pochino oltre, no? Può essere sicuramente determinante. E io ho associato subito, pensando a questo libro, proprio il ribaltamento di ruolo, no? Con la fine dell'Ottocento, se non erro nel 1870, quando uscì La Venere in pelliccia di Sacher Masoch, e qui nasce il termine masochismo, no? Questa Venere in pelliccia trattava di una donna che strumentalizzava un uomo, era lei la sadica e lui il masochista, e all'epoca questo tipo di romanzo fece tanto scalpore. Mi sto chiedendo come farti contento. E cosa per te rappresento? Ma almeno dimmi che sono l'amante del momento. A cosa sono disposte, no, le donne, almeno in tante canzoni, in tanta letteratura. E parlavamo soprattutto, Roberta Giordano, sempre con voi, con tanti ospiti, di questo successo incredibile, caso letterario di 50 sfumature di grigio e poi 50 sfumature di nero, 50 sfumature di rosso, della scrittrice britannica Erika Leonard, che si firma con lo pseudonimo di E.L. James, che ha venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo con, dicevo già all'inizio, grandi stroncature, però nonostante tutto, insomma, continua a vendere, le donne si precipitano a comprarlo e anche diversi uomini naturalmente lo leggono. Sempre con noi Beppe Tosco, attore di teatro e radio, autore TV, Gianna Schelotto, psicoterapeuta, il direttore di Panorama Giorgio Mulet, Roberta Giommi, sessuologa e psicoterapeuta, e la sociologa Elisabetta Fernandez. Mi chiedevo, Giorgio Mulet, tu tra l'altro ci hai tenuto, insomma, a movimentare un po' il dibattito su questo libro, anche perché, diciamo, molto esplicitamente di Mondadori, no? Del tuo gruppo editoriale, ed è comunque diventato un grandissimo fenomeno. Tu l'hai fatto recensire a donne e uomini, no? Questo libro. Tra le donne, per esempio, c'era la Santanchè, e poi la Deborah Serracchiani, invece una a destra e una a sinistra, poi una femminista storica come Franca Fossati. Che dicono, poi dopo parliamo anche degli uomini, che dicono in genere le donne? Ma sono, i giudizi divergono. Mi aveva colpito, vabbè, la Santanchè sottolineava che di fatto era, si trattava di libertà assoluta, secondo lei. Sì. Mentre invece Deborah Serracchiani aveva titolato che è la solita croce rossina, cioè era Anastasia è una che cede all'istinto di salvare questo uomo da questo buco nero che ha nell'anima, perché è bellissimo, ricchissimo, è bellissimo, ricordiamo, ma c'ha appunto i suoi problemi, i suoi traumi infantili, esatto, no? Esatto. E di fatto l'analisi della Serracchiani coincideva con quella di Franca Fossati, che è appunto una femminista storica, che di fatto dice: ecco, siamo davanti all'ennesimo uomo da salvare, e alla fine poi Anastasia di fatto ci riesce. Ma quello che poi in realtà ricorre nei giudizi delle donne è che in realtà molte volte le donne ridono quando leggono poi leggono questo libro. Vero, anch'io ho riso molto. Infatti rido perché alla fine, ecco, cioè, bisogna anche, secondo me, avere un atteggiamento un attimino più, come dire, tranquillo e rilassato. Cioè, parliamo di un libro, parliamo quindi di fantasie, diceva benissimo prima uno dei tuoi ospiti quando appunto ricordava come vi sono delle fantasie ricorrenti nelle donne, Raffaele Morelli, proprio su Donna Moderna, quindi non su un pericoloso organo maschilista, ma sul giornale Donna Moderna, scriveva poche settimane fa che appunto una delle grandi fantasticherie delle donne è quello di prostituirsi, e quello che sottolineava è che c'è il piacere del vivere anche nei bassi fondi, e di come lui fosse spaventato dai puristi che vogliono togliere al mondo le proprie radici. Ecco, secondo me bisogna avere un atteggiamento del genere. Il mondo è fatto anche di queste, che non sono perversioni, ma sono dei desideri, delle aspettative che hanno le donne, insomma, dei sogni, insomma, ognuno ci metta quello che vuole. Peraltro sono 50 anni che oramai leggiamo i libri più diversi dal punto di vista della sessualità o dal punto di vista erotico. Infatti, ma da questo punto di vista proprio, Giorgio Mulet, no? Io mi ricordo Istuardo, che forse, sì, diciamo, è il libro cult da questo punto di vista, sì, no? Del sadomasochismo, della donna che diventa la schiava sessuale e si sottomette anche con entusiasmo, insomma, al suo padrone, al suo schiavizzatore, al suo frustatore, sì, fustigatore, come lo vogliamo dire, anche se questo ha un po' uno stile un po' più casereccio, un po' più casalingo, un po' più raffazzonato. Ah, che sì, dici, guarda, tu dal punto di vista dello stile? No, guarda, dal punto di vista dello stile è imparagonabile, ah, cioè, appunto, per carità, qui siamo proprio davvero all'harmony denoiante. Cioè, siamo d'accordo su questo, no? E di una banalità semantica nella narrazione pazzesca. Io proprio adesso sto leggendo un libro di Jose Menon, che è I complici, che, come dire, anche lì si occhieggia anche tanto a un rapporto tra complici, appunto, tra due persone, lì è una segretaria e il suo capo, per cui diventa, sprofondano anche loro nel piacere, ma devo dire che non c'è nulla di paragonabile rispetto al passo che non ha in questo caso i libri della 50 sfumature. Lì si parla proprio di gioco segreto, c'è grande erotismo, è un grande libro, però insomma è un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, però continuiamo a chiederci come mai dei decine di milioni di copie di questo libro che continuano a vendersi, che sono state vendute. Roberta Giommi, quindi abbiamo detto un po' delle donne, gli uomini che cosa vogliono veramente? Vogliono questo? Vogliono la sottomissione? Rapporti estremi? Gli uomini leggono questo libro, sicuramente questi libri entreranno in una crisi tremenda, perché questo signore ha delle lezioni continue, delle capacità di rapporti frequenti, visti nella stessa giornata, la distanza uno dall'altro, ha delle dimensioni di cui lei fa accenno e anche esaltazione, cioè quindi credo che per i maschi, se non si centrano troppo sulla donna e quindi sul desiderio della donna stia tranquilla e faccia tutto quello che gli viene chiesto, potrebbero ricevere un po' invece delle indicazioni preoccupanti, cioè perché in realtà appunto c'è una prestazione molto forte del maschio che ha sempre la capacità di avere appunto rapporti sessuali. Eccezionale da ogni punto di vista questo Christian Grey. Quindi credo che i maschi, almeno che non si centrino molto sulla protagonista femminile, quindi si fa venire qualche crisi, dici, di... È un po' come sempre, no? Quando si legge di uomini che in realtà sono in grado di provocare grandi orgasmi, eccetera. Quindi penso da questo punto di vista, se si dovesse aumentare le ansie maschili, potremmo lavorare molto perché le abbiano. Sarebbe interessante, poi dopo lo richiediamo a Giorgio Mulè, ma Elisabetta Fernandez, secondo te... cos'è un maschio idealizzato ed estremizzato, questo forse, di un romanzo come questo che ha fatto grandissimo successo? Ma come dicevamo prima, è un fantasticare, è un ipostatizzare una figura ideale di uomo, e poi mi è piaciuto molto quel riferimento alla banalità semantica di Giorgio Mulè. Io estenderei come concetto questa banalità anche proprio esistenziale, no? Per cui interessano molto queste cose così perché stimolano un po' un immaginario molto molto sepolto nel fondo, per cui non tutti hanno il coraggio di poter scrivere o pensare le cose che qui la nostra signora ha scritto nel suo libro, e quindi è una sorta anche di liberazione, no? Poter leggere qualcosa che si ha paura di pensare. Sei d'accordo, Gianna Schelotto? Sono d'accordo, mi viene in mente un libro che non c'entra niente, cioè I ponti di Madison, perché un successo così clamoroso? Perché l'idea di una signora che intristisce nella sua casa, solitaria, che non sa, un marito che non si sa dove sia, eccetera, le arriva il bellone e questa si sente, come dire, travolgere la vita. Nello stesso modo l'idea che una casalinga scriva in termini così semplici, cioè negli stessi termini in cui qualsiasi donna potrebbe scrivere una cosa del genere, e quindi poter dire a se stessa, ma allora può capitare anche a me, cioè allora lo posso fare anch'io. Questo all'interno appunto di una vita, come dire, oppressa dalla monotonia, dalla crisi, dall'ansia. Guarda, a me mentre parlavate veniva in mente una storiella che mi ha molto divertito, che racconta di due lavandaie, una chiede all'altro, ma scusa, ma tu l'orgasmo l'hai mai provato? E l'altra dice, no, guarda, mi trovo così bene col Dick Sun. Insomma, questione, allora, no, di gusti, di se questo è il quadro generale, è chiaro che un libro come quello scatena le fantasie, scatena anche la voglia di andarsela a comprare e di leggerlo. Beppe Tosco, tu col tuo libro invece, Perché le donne credono nel colpo di fulmine, gli uomini nel colpo di culo, dedichi anche un capitolo a cosa alle donne proprio non piace. Vuoi lanciare un appello agli uomini, qualche indicazione, un suggerimento così? È uno di quei capitoli che ho inserito per troppa cura nel cercare di essere imparziale, quindi di non vedere soltanto dal punto di vista maschile ciò che succede tra uomo e donna. Una delle cose che le donne detestano di più è vedere un uomo in presenza di amici, in un salotto, soprattutto in pubblico ma anche in privato, che senza accorgersi neanche di farlo continua a toccarsi in continuazione la patta. E questo è un vizio di molti, moltissimi, a volte anche molti. Di persone che sembrerebbero eleganti, distinte, cioè questa sono specie di attrazione. Sono riuscito a togliermi questo vizio da qualche anno, ma ho dovuto impegnarmi. Quasi come smettere di fumare. Tu, no? Beppe, chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto di Beppe Tosco? Senti, ma volevo spendere due parole sul tema proprio di partenza per cui ci siamo ritrovati, ed è il sesso in tempo di crisi. Spendile a proposito di crisi, sì. Ma sì, pensavo che tutto sommato, tranne alcuni casi eccezionali e pubblici, è poi un passatempo a costo zero, quindi potrebbe essere incrementato, credo, in questo periodo questa attività, ecco. Beh, effettivamente, tra l'altro, a parte il fatto di incrementare l'attività per quanto riguarda la crisi, ma ci sono anche, avevo letto, esperti inglesi, britannici, che hanno detto che con il successo di questo libro sicuramente aumenteranno le nascite in Gran Bretagna, ci sarà un boom di nascite. Pensi che sia possibile, Roberta Giommi? tanto strano, cioè, il discorso è che appunto la fantasia è vero ed è finita, e generalmente viene sempre nutrita dalle cose che non sono della quotidianità o normali, però che in realtà questo comporti l'aumento delle nascite mi sembra abbastanza difficile, cioè almeno che appunto la fantasia non produca eccitazione, l'eccitazione sia prodotta in un atto sessuale fecondante, ecco. E qui mi piacerebbe anche capire se in realtà il grande successo è legato più alle femmine o ai maschi, perché di questo libro, cioè se è vero che anche noi suggeriamo nelle situazioni in cui c'è crisi nel desiderio che le persone nutrano il proprio immaginario con cose diverse. Nel Giardino Segreto, appunto scritto tanti anni fa, si diceva che comunque le donne hanno molto fantasia di tipi profondamente diversi, cioè quindi non soltanto il sadomasochismo, ma anche il potere, il voyeurismo, eccetera. Quindi potremmo dire in realtà anche noi come sessuologi suggeriamo di avere delle fantasie che siano preparatorie, aver voglia di fare l'amore o il sesso con la persona con cui stiamo vivendo una storia o un'avventura. Però che questo produca appunto il fatto delle nascite potrebbe essere un po' preoccupante, perché c'è una confusione tra sesso gioia, divertimento e il sesso riproduttivo. Probabilmente perché, dicono questi esperti, ci sarà un sovraccarico di eccitazione leggendo pagine come queste, al di là della banalità semantica di cui parlava Giorgio Muleo, di quella esistenziale cui faceva riferimento Elisabetta Fernandez. Però sai, quando ci si concentra così anche con molta leggerezza su qualche lettura, anche se uno avesse delle immagini, qualcosa stimola, no? Al di là dello stile. Infatti, se noi parliamo di eccitazione, secondo me è vero, però anche la pornografia eccita, se dobbiamo essere onesti. Sì, sì. Cioè anche il cybersex, anche scrivere cose erotiche, le persone scambiano nelle chat, sicuramente crea un'eccitazione, lo stiamo vedendo anche nella consultazione, eccetera. Quindi l'aumento dell'eccitazione ci sarà sicuramente, perché sono anche molto espliciti. Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto, e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani. Esplicita, diciamo, che canzone, avete bisogno delle immagini, delle figure, come si dice, no? Per ricordarvi di cosa vi sto parlando insieme agli ospiti di questa puntata speciale Non ci sono più le mezze stagioni. Roberta Giordano con voi, stiamo parlando di sesso, di sessualità, con particolare riferimento a questo fenomeno del momento, degli ultimi mesi, che è questa trilogia, questa saga erotica di sesso estremo e sadomaso, un po' casereccio abbiamo detto, a volte anche lo trovo un po' parodistico, però insomma si può anche sorridere leggendo con divertimento un libro come questo, dicevo, la trilogia di L. James, 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero, 50 sfumature di rosso e chissà cos'altro ci aspetta. Giorgio Mulè, direttore di Panorama, dicevo che ha dedicato copertine a questo argomento. A proposito invece delle recensioni che hai fatto fare agli uomini, ai maschi, su questo libro, Giorgio, un politico di destra, come hai fatto invece con le politiche di destra e di sinistra per quanto riguarda le donne, Bocchino, che anche lui ha parlato di un Harmony, infatti è un po' l'immagine e l'evocazione che è venuta un po' a tutti gli stroncatori, me compresa, no? Con lo stile Harmony che ha voluto scopiazzare un po' Istuardo degli anni 50-60. Poi l'hai fatto leggere a Moccia, autore di bestseller per adolescenti, che avrebbe detto in sintesi: l'amore cerca sempre l'oltre, e poi chiederemo alle nostre psicologhe e sessuologhe se è vero che è così. E Siffredi, che non ha bisogno di presentazioni, è vero, attore porno dalle dimensioni dimensioni eccezionali, a proposito degli uomini che si sentono poi in crisi rispetto a questi paragoni, che ha detto a letto: lei vuole il dominatore. Se lo dice lui, sarà così, Giorgio? Ma non lo so, io devo dire che mi sono però molto divertito per diverse settimane in questo gioco di 50 sfumature, perché sai, anche viaggiando, vedendo in treno, in aereo, non hai idea di quante donne davvero, d'altronde il numero delle copie è quello che leggevano questo libro, ma soprattutto mi colpiva il fatto che... Mi dice Margherina Ina dall'assistenza di regia che è vero, quindi... Sì, e quindi anche metropolitana, ha detto Giorgio, quindi... metropolitana, è verissimo. E poi queste donne ti guardano con desiderio, forse è possibile, Giorgio? No, perché sono brutto come il peccato. Ma... non è vero per niente. Fishing for compliment. No, è che in realtà devo dire, cioè, è tutto molto più, secondo me, sereno. Cioè, noi abbiamo costruito su questo libro, sul fenomeno di questo libro, una serie, secondo me, di sovrastrutture che in realtà non ci sono. È molto quello che dicevate prima, è vero. Cioè, in un momento in cui siamo assillati, circondati da cattive notizie, dobbiamo sentirci in colpa se andiamo in vacanza, bisogna essere sobri, eccetera, eccetera, le donne in questo caso, perché la stragrande maggioranza sono donne, hanno trovato la libertà, nel senso, non si sono sentite finalmente, piacevolmente attratte da un argomento che non c'entrava nulla con il momento. Nessuno di queste donne vuole imparare, secondo me, qualcosa leggendo questo libro. Si vuole rifugiare, poi magari quando torna a casa o quando parla col marito, lo guarda e magari fanno l'amore. Alla fine dice, beh, tutto qui. Insomma, è un modo per far sentire il marito, il compagno, il fidanzato seriamente in difficoltà. Quindi, come si diceva, insidioso come libro per gli uomini, questo, un po' a rischio. La cosa che dicevate è vera, l'avevo letta io sul Guardian, quella delle nascite, ed è verissima. Cioè, in Inghilterra sono convinti che le nascite aumenteranno, però insomma penso che nel 2012 i metodi contraccettivi siano più o meno noti. Efficaci e noti, insomma, la massa, diciamo. Invece, volevo chiedere a Elisabetta Fernandez, secondo te come si può trovare quindi l'equilibrio tra un sesso molto spinto e che va oltre, ognuno con le sue fantasie, se appunto lo si gioca in un modo così disinvolto, e però il rispetto reciproco? Cioè, è facile trovare questo equilibrio? Adesso potrebbe anche essere una cosa complessa, però per semplificare il tutto io direi, in primis, non riduciamo tutto a una prestazione fatta di superfici e misure, e chiaramente questo potrebbe implicare ansia di prestazione e tutta una serie di situazioni alquanto inquietanti. Poi partire dal presupposto che la sessualità sia una forma privilegiata di comunicazione, una comunicazione attraverso i due corpi che uniscono le rispettive menti, quindi è una fusione, non è una confusione, è un qualcosa di armonico e di dovrebbe essere equilibrato, dove non ci debbono essere regole. Il limite va stabilito di volta in volta in base al momento, quindi niente imposizioni, niente sovrastrutture, le stesse sovrastrutture delle quali stiamo caricando poi questo scritto, che io vorrei dire, senza prenderci troppo sul serio, certo. No? Anche leggere delle volte un qualcosa di semanticamente banale, un qualcosa che ci porta un po' fuori anche da questo periodo così pesante di crisi, va bene, può no? anche avere i suoi vantaggi. Non è che per forza bisogna leggere un Dostoevskij, no? Sotto l'ombrellone. No, non dobbiamo sempre essere, avere quella pesantezza dell'essere, no, un po' di leggerezza fa bene e aiuta specie in questi periodi di crisi. Questo non è un ottimismo demenziale, è soltanto una valvola di sfogo, pur mantenendo così la nostra logica solita, la voglia di essere a contatto con i fatti della realtà. Però un attimo di loisir e anche di evasione non fa sicuramente male, e credo che questo libro vada letto in quest'ottica. Non ci si trova di fronte ad un grosso capolavoro, ci si trova di fronte a un libro leggero da leggere così anche sulla metro o sotto l'ombrello in spiaggia. Roberta Giommi, invece, come si fa, sempre nel trovare la via di mezzo, gli equilibri, no? Ad accogliere appunto un libro come questo, verso i quali molti si sono scagliati, non per lo stile, che su quello sono assolutamente d'accordo, l'abbiamo già detto, ma per i contenuti? Come si fa a trovare appunto questo equilibrio tra accogliere comunque contenuti di questo tipo, di sesso spinto, di sadomaso, io dicevo a tratti tra le righe di questo libro, secondo me un po' parodistico involontariamente, e educare, come dicevi tu, l'educazione sessuale, educare arrivare alla parità tra donne e uomini, perché poi ognuno si può giocare il proprio ruolo nel letto, credo anche tra persone dello stesso sesso, non deve essere per forza una cosa maschile e femminile, no? Ma come si fa a trovare, a insegnare anche la parità, l'armonia nella sessualità, per poi giocarsela con libertà come si vuole? Ma è appunto un po' la grande scommessa che facciamo in tutti questi anni nel parlare con i ragazzi e con le ragazze, con i bambini, le bambine. È un po' la valorizzazione dei tesori, virgolette, sensoriali, emotivi che possiamo avere senza dover trovare sempre delle sovrastrutture, no? In fondo, in realtà, qui c'è tutta una sovrastruttura che potrebbe, non è sicuramente un mito, perché è una lettura che somiglia molto alla pornografia, ma anche all'erotismo alto, che generalmente usa più o meno le stesse immagini. Quindi, quando parliamo di ragazzi e ragazze, la parità non è tanto la lotta sindacale tra uomini e donne, o appunto la protezione delle scelte diverse nella sessualità, è proprio anche partire dal corpo, dalle belle risorse che abbiamo con i sensi, dal fatto di gustare le esperienze, di viversele, di farle diventare importanti, di amare, cioè quindi ci sono tutta una serie di cose di cui parliamo con i ragazzi e le ragazze, e poi ci fanno delle domande anche molto semplici, molto tenere, cioè non così difficile. Ecco, un po' l'idea che il sesso sia attraente, soprattutto quando appunto è passione, quando rompe le regole, quando è esagerato, questo un po' ci preoccupa, perché poi in certi momenti, lavorando con i ragazzi e con le ragazze, c'è più appunto l'idea di non avere tabù negativi, di non avere paura, di sapersi proteggere con intelligenza, cioè quindi è un lavoro molto paziente, con il discorso che spesso e volentieri della sessualità si può parlare solo dopo, quando parliamo che di cose semplicissime, dopo le 11 oppure in orari particolari, cioè quindi è tutto un grande lavoro che noi facciamo e che trovo una bella risposta, perché i ragazzi e le ragazze ci possono fare le domande. Questo diciamo è una cosa a sé, cioè quindi che sia molto letto, penso che sia, anche perché comunque è sotto sotto una spazio. Forse Roberta Giommi è caduta la linea, non so cosa è successo, se è stata presa dalla trepidazione. Comunque, volevo chiedere a Beppe Tosco. Beppe, detto molto sinceramente, diccelo proprio col cuore aperto, con l'animo aperto, con gli uomini che vogliono, gli uomini cosa sognano? È molto personale la cosa, potrei dire cosa sogno io, ma... Sarebbe molto interessante anche sapere cosa sarebbe sogni, interessante, no, salterebbero fuori delle... Già che non ci senta nessuno. Credo che non ci senta quasi nessuno a questo punto. Nel senso che si parla sempre tanto di donne, delle loro fantasie, questa trilogia poi della scrittrice britannica. È fondamentale. Ora, se la si usa per giocare nel letto va benissimo, se la si usa nella vita per star bene insieme va altrettanto bene. Ecco, una cosa che ho cercato di raccontare nel libro è proprio questa, che spesso è un collante tra nella coppia riuscire a scherzare, e soprattutto sui difetti del proprio partner o avversario, poi scegli tu quale è meglio. A seconda dei casi. Scherzare nel senso divertito del termine. Io credo sempre che quando qualcuno in coppia fa qualcosa che veramente dà fastidio all'altro, il sistema migliore non è tenergli in muso, oppure riempirsi di rancore fin quando si esplode, ma cercare di coinvolgere l'altro in un gioco che gli faccia capire come mai e che cos'è che non va di quella persona, di quel... un modo di fare che non... Però vogliamo dire, Beppe, che non è sempre facile, si dice sempre, no? Anche le sessuologhe presenti saranno d'accordo con noi, poi recuperiamo Roberta Giommi, ma non è sempre facile dirsi esplicitamente, tutti fanno i grandi discorsi, bisogna comunicare tra i partner, bisogna dirsi quello che va, che non va, quello che si vorrebbe, le proprie fantasie, i propri desideri, le mancanze, però tutti ci si vergogna un po', e poi si ha anche la paura che facendo una richiesta ben precisa l'altro si inibisca, o no? Succede questa cosa? Certo, se la fai precisa e diretta sì, ma se metti l'altro nell'occasione di essere tentato, oppure lo indirizzi, lo invogli con qualche trucco, e quindi non essendo proprio del tutto sinceri ma sempre a fin di bene, magari ci riesci. Forse anche per quanto riguarda tutta la parte passionale, erotica che c'è tra, diciamo, in una coppia che sta insieme da un po', perché è chiaro che i primi sei mesi in tutti i laghi, in tutti i luoghi, come dice. Un uomo far dappertutto e sempre, diciamo, quelle 24 ore su 24. Eh beh, di giochi se ne possono fare, ma anche quelli, sì, poi per carità io non posso assolutamente competere con sessuologi ed esperti, io sono uno che scrive cose che fanno ridere, quindi ho una conoscenza limitata. Il sesso fa ridere anche parlare di sesso, no? Vogliamo sì, dire. Ma sai che mi veniva in mente prima, io questo libro ancora devo leggerlo, ma credo che lo cercherò, anche perché il titolo mi incuriosisce, sembra di andare al parrucchiere quando compri quel libro, cioè. Ma bisognerebbe provare a fare una lettura a voce alta, mi dici che potrebbe essere molto comica, non so se interessa, io mi presto a Radio 24, magari lo organizziamo integrale. Va bene, senti, tanto in questa... Io perché non l'ho ancora letto, perché poi quando lo leggerò capirò perché non è possibile. E ci siamo mischiati la pelle, le anime, le ossa, ed appena finito ognuno ha ripreso le sue, tu che dentro sei perfetta, mentre io mi vado stretto, tu che sei la più brava a rimanere mania, forse ti ricordi solo si canta Ligabue con grande passione, insomma, grande veemenza erotica. Detto tutta questa è una puntata, non ci sono più le mezze stagioni, dedicata a questo argomento. Roberta Giordano sempre con voi e sempre in compagnia di Gianna Schelotto, psicoterapeuta, di Giorgio Mulè, direttore del settimanale Panorama, di Beppe Tosco, attore di teatro e radio, autore TV, con Roberta Giommi, sessuologa e psicoterapeuta, e con Elisabetta Fernandez, sociologa e sessuologa. Roberta Giommi, so che devi scappare per un paziente, non credo che sia un incontro ravvicinato, visto che si è parlato di questi argomenti, non lo so, ma sono fatti tuoi. Roberta, per chiudere ti lascio allora velocemente, dicevamo prima con Beppe Tosco, a volte parlarsi, si dice sempre, gli esperti no, dicono parlatevi, comunicate nelle coppie, ditevi cosa volete, cosa non volete, i desideri, eccetera, ma è vero che non è per niente facile, no? Al di là che questa sia una buona indicazione, poi si ha paura quasi di per se stessi, si ha la timidezza di dirlo, e a volte l'altro partner, donna o uomo, si inibisce, quasi ti sembra di spingerlo a fare una cosa che non farebbe se non glielo chiedessi. Sì, intanto le fantasie sessuali non sempre sono realizzabili, quindi a volte contengono cose che si vuol pensare ma non fare, e l'altro discorso è che spesso la fantasia è anche usata in modo amico, personalmente, per trovare l'eccitazione o raggiungere l'orgasmo, quindi non sempre si può raccontare. Quindi a volte sì, perché è un modo di giocare insieme, a volte no, perché è una fantasia segreta e ti aiuta a guadagnare la competenza ad avere rapporto. Senti, quest'ultima cosa, Roberta, diciamolo sia donne che uomini, quando l'altro, il partner, maschio, femmina, eccetera, si capisce che non ha più tanta voglia, bisogna preoccuparsi quando non c'è più questa tensione erotica alla ricerca dell'altro? Ma dunque, allora, noi consideriamo un po' la fluttuazione del desiderio e dell'eccitazione come normale, cioè quindi ci sono periodi in cui lo sentiamo meno di più. Se però il discorso di non avere voglia di fare l'amore dura abbastanza, cioè per abbastanza intendiamo 4, 6, 8 mesi, allora ci dobbiamo preoccupare, perché vuol dire che sta uscendo dal rapporto di coppia la sessualità, che invece è molto importante come modello d'unione e comunque di condividere. È una colonna portante. Grazie Roberta Giommi. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione, buon lavoro soprattutto, e aiuta naturalmente chi in questo caso si trova in difficoltà. Giorgio Mulè, Giorgio, un'altra copertina che tu hai dedicato col tuo settimanale, no, all'argomento, sempre la trilogia di James, è quella col Davide Michelangelo, quindi prima una donna in abiti succinti, diciamo così, sottomessa e felice, come titolava la copertina, invece poi c'è il maschio cercasi, un Davide Michelangelo con lo sguardo un po' sgomento, smarrito, le parti intime coperte da questa dicitura maschio cercasi, e poi lo definisci sulla copertina infantile, effeminato, insicuro, l'uomo di oggi sta spingendo la donna e i suoi desideri verso esperienze estreme, dal bondage al sadomaso, in cui lei cerca sicurezza e affetto, come racconta appunto il bestseller di cui abbiamo detto. Ma può essere questo il futuro? Cioè può essere che gli uomini siano intimoriti da tutto questo entusiasmo, anche per esempio per un libro del genere? Le donne potrebbero assaltare i propri compagni dopo una lettura di questo tipo? Guarda, penso che in realtà il vero problema non siano le donne. Noi abbiamo parlato di donne, continuiamo a parlare di donne. Il vero problema qui è davvero è l'uomo. L'uomo, cioè la mancanza di fantasia, il fatto che gli uomini maschi davvero scarseggino in giro, è il punto vero per cui molte donne poi a mio giudizio si rifugiano in 50 sfumature. Peraltro a riprova di questo c'è anche questo fenomeno in America, questo film che arriva tra poche settimane in Italia a settembre, Magic Mike, che racconta di questo spogliarellista, anche lui un mago con le donne, che in America il primo weekend di programmazione ha sbancato, ha fatto più di George Clooney, quindi un fenomeno pazzesco. E anche lì è la storia un'altra volta di un uomo che è un po' il sogno delle donne e che è un uomo che nella realtà non c'è, perché non ha, ripeto, fantasia, non ha voglia di fare, è un uomo che si nega ed è un uomo che non si dà quello che attualmente c'è in giro. Da qui secondo me la crisi del maschio che si riverbera poi, ahimè, anche nelle coppie. Gianna Schelotto, ma in realtà, no, cercando di avvicinarsi sempre di più come identità nella almeno auspicata parità, nel fatto di comprendersi un po' di più, di lasciare alcuni, non tutti gli stereotipi dei ruoli di genere al passato, non ci si dovrebbe più avvicinare invece tra donne e uomini, no, nell'intendersi, anche poi nell'intendersi quindi negli aspetti più intimi, diciamo? Certamente il problema della crisi del maschio, noi lo stiamo da solo 30 anni che parliamo di crisi del maschio, cioè dagli anni nei quali c'è stato il femminismo ruggente, che tutti continuano a dire certo le donne spaventano gli uomini, e io credo che questo sia un problema reale che riguarda appunto gli uomini ma soprattutto le donne. Quindi è importante ritrovare, perché secondo me ha ragione Serracchiani quando dice che c'è la solita croce rossina in questo libro, nel senso che comunque anche la casalinga frustrata che vive il grande divieto, la grande passione proibita, però poi alla fine che cosa sogna? Sogna di essere la mamma che tutto dona e tutto perdona, cioè l'antico masochismo che ha a che fare con il ruolo materno. Quindi se noi non usciamo da questo tipo di stereotipi, sia al femminile sia al maschile, sarà difficile che gli uomini superino le loro crisi e che le donne escano da questo loro ruolo salvifico rispetto agli uomini. Elisabetta Fernandez, secondo te è più un problema, no? Cioè, la annosa, infinita diatriba tra cultura e natura, no? Quanto di tutto questo e anche il successo di questo libro è insito, diciamo, nella natura del modo di essere donna e uomo, e quanto invece per sovrastrutture culturali, per stereotipi, per no, pregiudizi, per il retaggio che ci portiamo dietro? Sì, per cultura la donna ha dovuto sempre vivere la sua sessualità in modo diverso dall'uomo, no? E questo lo sappiamo bene, per conquistarci degli spazi e anche il riconoscimento di una sessualità femminile abbiamo lottato per tanti anni. Chiaramente leggere questo libro con questo tipo di così di lettura, in una chiave di lettura un po' ottimista e un po' ironica, come suggerivo prima, è la dimostrazione che comunque le donne, pur se la cultura le ha tanto represse, stanno mano a mano venendo fuori, in ragione del fatto che il famoso distico natura e cultura è quasi equivalente, nel senso la natura ci forgia in un certo modo, la cultura però riesce poi a plasmare. Io faccio sempre l'esempio: se noi prendiamo del pongo e facciamo un vaso, e poi prendiamo del vetro e facciamo un altro vaso, sono comunque due vasi di materiale differente, ma possono essere due bei vasi. E quindi anche sul discorso maschile e femminile la cultura ha una forte influenza, e purtroppo la donna che è stata repressa per tanti anni dal punto di vista sessuale, dal 68 diciamo in poi, tanto per datizzare un attimo l'argomento, dal 68 in poi è iniziata questa sua galoppata nell'emancipazione. Ecco, la donna, io le suggerirei, ecco, di affrontare questo tipo di letture così un po' ironiche, ironica, in modo veramente ironico, non prendendosi troppo sul serio, non confondendo l'immaginario con la realtà, non creandosi stereotipi, ideal tipici di livelli assurdi che chiaramente di fronte ai quali poi l'uomo viene a scomparire, e giustamente ritorna il discorso di quest'uomo che si spaventa. No, l'uomo e la donna devono lavorare insieme, collaborare e non competere. L'uomo è bello con tutti i suoi difetti, come del resto anche la donna. Dobbiamo noi donne cercare di comprendere di più questi uomini che forse sono, mancano, poi sentono il desiderio di qualche coccola in più. Cerchiamo noi di essere meno sessuate e più coccolone. Secondo me l'arma vincente è proprio questa della tenerezza, anche perché da statistiche recenti risultano in aumento come uomini ideali gli uomini teneri. E adesso, mentre ci avviciniamo verso la fine, vi ricordo che tra l'altro uscirà senz'altro un film su questa trilogia erotica, questo è inevitabile. Giorgio Mulè, secondo te come andrà a finire? Quante altre sfumature, di quali colori, e come finirà? Che alla fine sarà lei che avrà il potere in mano e legherà lui e lo frusterà e lo sculaccerà, si ribalteranno i ruoli? Non se ne può più in realtà, quindi in realtà si spera che questi due si sposano, fanno due bei bambini, anche fanno una più. Vita normale, esatto, quindi anche perché poi oggettivamente uno entra in crisi, perché questo ritmo non sfido chiunque umano a poterlo tenere, quindi ci sorbiremo il film peraltro non sarà il successo che invece non replicherà il successo. Staremo a vedere. Ma secondo me no, ma insomma io spero davvero che Anastasia e Christian si sposino, abbiano, mettono su famiglia, così e rientrino un po' d'amore nei canoni e nell'amore. Grazie a Giorgio Mulè, grazie a Elisabetta Fernandez, a Roberta Giommi, a Gianna Schelotto e a Beppe Tosco. Da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti, ma non solo. Allora, a questo punto possiamo dire anche sereno sesso a tutti.